Piazza 24, i gialli della storia. È interessante sapere che loro pensarono di fare questo giornale dopo un ricevimento che avevano dato i Rizzoli, mi pare, sì, i Rizzoli, per festeggiare il lancio di un settimanale già esistente, ma che i Rizzoli avevano rimesso all'Onore del Mondo, che era proprio Il Mondo. E allora, siccome con questo settimanale i Rizzoli avrebbero in qualche maniera disturbato il mercato dei settimanali, dove Caracciolo e Scalfari agivano da tempo con l'Espresso, allora Scalfari e Caracciolo, uscendo da quel ricevimento, si dissero: vengono a dar fastidio a noi nel mondo dei settimanali? Bene, adesso noi ci vendicheremo e daremo fastidio a loro nel mondo dei quotidiani. Nel 1976 avevo la fortuna di dirigere ancora il Corriere della Sera. Quando arrivò questa notizia che sarebbe nata Repubblica, fare un giornale partendo da zero è un'impresa difficile. E comunque noi al Corriere della Sera preoccupati non eravamo. Era Pierottone, allora direttore del Corriere della Sera, che ricorda le reazioni del mondo della carta stampata alla notizia della nascita di un nuovo quotidiano. È il 14 gennaio del 76, esce il primo numero di Repubblica, un quotidiano che per le sue caratteristiche e il suo stile modificherà il modo stesso di leggere il giornale. Punti di forza il formato tabloid mai usato in Italia, un font più moderno e ancora l'idea di eliminare le edizioni locali, la scelta di un importante settore dedicato all'economia, la decisione di non trattare il calcio. E infine le firme prestigiose, tra gli altri Bocca, Viola, Valentini, Aspesi. Questo sarà la rivoluzione del nuovo quotidiano che presto diventerà il giornale più letto in Italia. Nella prima pagina di quell'edizione l'incarico a Moro, un'intervista di Scalfari al segretario del PSI De Martino, un'inchiesta sull'antimafia. Oggi a Mix24 festeggiamo il compleanno di Repubblica con noi Eugenio Scalfari e Ezio Mauro, i due giornalisti direttori che hanno avuto la responsabilità per 40 anni del quotidiano. Il giornale alla sua nascita era un giornale, diciamo, radical socialista, radical nel senso dei radicali del settimanale Il Mondo di Mario Pannunzio. E socialista Nenni, De Martino, eccetera. Infatti, se non ricordo male, sul primo numero uscì un'intervista che feci io, andai a Napoli apposta per intervistare De Martino, che allora era il segretario del Partito Socialista. Noi ci siamo semplicemente limitati a puntare molto sul fatto che una serie di versioni ufficiali, di voci ufficiali, hanno perduto una parte notevole della loro credibilità. Ecco, noi abbiamo impostato la campagna dicendo: o credete alle versioni ufficiali, o credete ai discorsi inaugurali, o credete ai bilanci aziendali. Si intende che ci sono anche dei bilanci aziendali esatti, ma abbiamo anche detto: o credete alla televisione, o credete a Repubblica. Repubblica nasce come costola dell'Espresso. La linea politica, ripeto, era una linea innovativa, progressista, di giornale moderno e quindi di centrosinistra, riformista, laico. Un giornale senza cronaca locale e senza sport sembrava veramente in quel momento un giornale destinato a fallire. E siccome l'idea era di fare un giornale nazionale, non localizzato, allora volevamo un titolo che desse l'idea del paese, diciamo, nel suo complesso. Però il titolo Il Paese era già, c'era già il giornale Il Paese, Paese Sera. La Nazione c'era già. Pensammo alla Repubblica. E ci pensammo anche perché proprio in quel periodo era da poco o era ancora in corso la rivoluzione cosiddetta dei garofani, la rivoluzione portoghese, e uno degli episodi di questa rivoluzione fu che fu invasa la sede del giornale La Repubblica portoghese, perché i tipografi, gli operai che lavoravano a quel giornale non gradivano la linea di quel giornale. La linea era più conservatrice della rivoluzione in corso, però comunque impedirono l'uscita e dava anche un'indicazione politica, perché metteva in mostra i valori, quelli che in Francia si chiamano i valori repubblicani, la République. C'era una assonanza importante fra Scalfari e gli amici di Scalfari e noi, che era l'affermazione della libertà della stampa di fronte al potere democristiano soprattutto, ma non solo democristiano, che in quel momento infieriva nel paese. Lei è stato l'inventore del giornalismo economico, oltre che sulla carta stampata, anche in televisione. Che ricordo ha di quell'esperienza? Beh, quella fu un'esperienza molto divertente, perché si cercò di introdurre nel telegiornale una rubrica economica, ma risaliamo a tempi molto andati, era il 1962-63. Però la preoccupazione maggiore dei conduttori di questa trasmissione era che io fossi troppo chiaro. E come finì questa esperienza? Finì male, perché poi dopo finì, non andò avanti. Ecco, mi ricordo come avvenne, quale fu l'episodio che dette luogo a questa interruzione. C'era come sempre un aumento di prezzi dovuto a varie cause. Tra queste cause io dissi che era dovuto anche ai commercianti. E allora mi fui pregato di dire che era dovuto al circuito distributivo. E io dicevo che il circuito distributivo, pochi avrebbero capito che cosa era il circuito distributivo, e continuavo a voler dire i commercianti. E finì su questo perché la ripresa fu fatta due o tre volte, sempre mi dicevano ma forse è meglio dire circuito distributivo, io dicevo commercianti, poi alla fine mi seccai. E un'altra caratteristica di Repubblica saranno le vignette in prima pagina firmate da un ispirato Giorgio Forattini. La vignetta era collocata nella pagina dove c'erano i commenti. Gli articoli di commento, che era una pagina interna, anche questa fu un'innovazione, perché i giornali i commenti li mettevano in prima pagina e noi li mettemmo in una pagina interna. Abbastanza presto noi cominciammo a mettere anche la vignetta in prima pagina, e il nostro vignettista all'epoca era un Forattini in splendida forma, che non faceva mai scritte, non faceva mai il fumetto nella vignetta, perché la vignetta, anche questa era una regola che ci eravamo imposta e che Forattini del resto condivideva, parlava da sola. Quando Montanelli fu ferito da una pistolettata alla gamba, Forattini fece una vignetta, ero ritratto io che con un'aria disperata mi autoferivo con la pistola, mi autoferivo alla gamba, per dire che mi rincresceva che la ferita di Montanelli facesse notizia a favore del Corriere della Sera. Ma le caratteristiche della direzione di Scalfari saranno anche le sue battaglie, i suoi scontri, come quello con Francesco Cossiga, con Bettino Craxi. Bettini telefonava quasi ogni mattina, facevamo delle chiacchierate, poi lui era un tipo molto estroverso. Dopo arrivò Cossiga. Cossiga era, come Bertini del resto, un mio intimo amico. I nostri rapporti si mantennero sempre molto intimi. E così furono per i primi 5 anni del suo settennato. Proclamo eletto Presidente della Repubblica il senatore Francesco Cossiga. Poi ci fu una rottura, perché lui cominciò a fare il picconatore. Com'è concepibile questo invito dell'Associazione Nazionale dei Magistrati a scioperare in una situazione così complessa della vita politica e istituzionale del Paese? Ce l'aveva coi giudici, tra l'altro. Cominciava a dire che il Consiglio Superiore della Magistratura era un organo che non doveva fare quello che faceva. Lui era il presidente del Consiglio della Magistratura, quindi poteva influire nella funzione di presidente, non facendone denuncia pubblica. Insomma, crea confusione. È un'istituzione che ha delle funzioni precise, le deve svolgere col massimo rigore, autocriticare, criticare, ma non appellarsi al pubblico, perché l'appello al pubblico fatto dal Capo dello Stato nei confronti dei magistrati e degli organi dell'autogoverno della magistratura è una cosa che solo Berlusconi lo fa. Non è possibile che si creda che un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso di diritto romano, sia in grado di condurre un'indagine complessa come può essere un'indagine sulla mafia e sul traffico della droga. Questa è un'autentica sciocchezza. Io l'andai a trovare e gli dissi: senti Francesco, questa linea non mi sembra adatta, non si addice al Capo dello Stato. Io ti volevo solo avvertire che su questa linea noi ti criticheremo, mi dispiace, te lo avviso prima, dati i rapporti che ci sono tra noi. E così avvenne. Secondo la dottrina giuridica del dottor Scalfari, che adesso parlando in confessionale mi accorgo che si atteggia anche a teologo, cosa che mi fa piacere, perché essendo stato in lontani tempi amico, guardi se mi può far piacere se diventa anche teologo. Probabilmente come teologo si metterà, come ha insegnato a Berlinguer a fare il segretario del comunista, a Zaccagnini a fare il segretario della DC, adesso si metterà a insegnare a Ratzinger come bisogna fare il prefetto della congregazione della fede. E poi invece l'altro dibattito molto aspro, con pause ma anche con una linea tendenziale di critica molto forte, fu a Craxi. Io un anno fa dissi quello che pensavo. Dissi che in Italia esisteva un gruppo editoriale che aveva condotto e conduceva contro la mia persona e contro il mio partito delle campagne di odio, di una sistematicità e scientificità che non avevano precedenti. Noi cominciamo a definire Craxi, il suo gruppo e poi le sue alleanze nella Democrazia Cristiana come una banda che aveva occupato le istituzioni. Dopo 20 anni la direzione del giornale passa nelle mani di Ezio Mauro, che porterà nuova vitalità alla struttura di Repubblica e che continuerà a valersi della firma di Scalfari per gli editoriali della Domenica. Noi dobbiamo cambiare restandosi noi stessi. Il giornale deve adeguarsi ai bisogni diversi della realtà che abbiamo davanti, alle domande che vengono dalla società, che non sono sempre uguali secondo le fasi che il nostro paese sta vivendo, però ha l'obbligo, anche più di altri giornali, di rimanere in qualche modo fedele a se stesso, e cioè a quella che è la sua natura, la sua anima, il suo carattere. Possiamo metterci d'accordo con la parola, purché sia chiaro che cosa intendiamo. Quel modo di essere di Repubblica e di coloro che la comprano, che poi è la ragione della speciale appartenenza che i lettori hanno con questo giornale. Repubblica è molto di meno di un partito e si potrebbe dire paradossalmente che è molto di più. La politica è uno spicchio molto importante, ma il rapporto che Repubblica ha con i suoi lettori riguarda il nostro comune modo di vivere, riguarda una dimensione culturale molto ampia, riguarda quella che io in una formula chiamo una certa idea dell'Italia. L'interesse generale rimane quella cosa a cui i giornali devono guardare, al di là degli obiettivi di parte, e questo obiettivo rimane comune e in qualche modo rimane intatto, rimane obbligatorio sia nella prima che nella seconda Repubblica. Quello che si è smarrito nella seconda Repubblica è un po' quel sentimento che mette insieme l'interesse generale col senso delle istituzioni e quello che io chiamo un po', per usare un termine francese, uno spirito repubblicano. La giornata comincia naturalmente con la lettura dei giornali, telefonando ai colleghi, sentendo gli editorialisti, i commentatori, parlando con le persone che cominciano ad entrare nella mia stanza, e poi tra le 10:30 e le 11:00, ormai per slittamenti sempre più verso le 11:00, comincia la riunione plenaria del mattino, che è un rito a cui Repubblica è abituata perché Scalfari l'ha sempre fatta così per 20 anni, noi continuiamo. È una riunione in cui noi cominciamo a esaminare il nostro giornale dalla prima pagina all'ultima e lo discutiamo pubblicamente. E il quotidiano sarà in prima linea tutte le volte che sarà necessario realizzare inchieste scomode o semplicemente dare per primi una notizia, ma senza tradire la scelta di stare dalla parte delle istituzioni anche quando era difficile difenderle. Gli scoop, certo, me li ricordo perché fanno piacere. Quando noi abbiamo dato per primi la notizia che dopo la caduta del governo Prodi il Presidente della Repubblica era intenzionato a dare l'incarico ad D'Alema, noi siamo usciti con questo titolo di testata: governo tocca D'Alema, e non ce l'aveva nessun giornale. Era una notizia che mi aveva dato Prodi. È proprio un giorno speciale. Massimo D'Alema esce di casa di buon'ora e riesce a sorridere alla impavida cronista che indaga sui suoi rapporti con Morfeo e gli chiede come ha dormito stanotte. La prima volta di Massimo D'Alema, leader dei Democratici di sinistra, comincia così. Istruzione, lavoro, nuove generazioni. E così conclude D'Alema sul valore del dialogo per la responsabilità, dice, che pesa su ciascuno. E anche chi si oppone sa che questa responsabilità la condivide. Il governo di Belgrado smentisce, ma sull'affare Telecom Serbia grava un'accusa pesante. L'Italia avrebbe favorito il regime di Milosevic, un affare siglato nel giugno del 97, circa 878 miliardi di lire pagati dalla Telecom Italia per acquisire un terzo di Telecom Serbia, e poco meno di 32 miliardi, secondo le rivelazioni del quotidiano La Repubblica, sarebbero finiti in due conti esteri. Oppure lo scoop che hanno fatto i colleghi D'Avanzo e Bonini su Telecom Serbia, quando hanno svelato lo scandalo la prima volta, e la seconda volta, altrettanto importante, quando hanno svelato e sventato con un articolo di giornale la macchinazione che era stata messa in campo contro Prodi, contro Fassino, contro Dini, spiegando giornalisticamente di quali ingredienti di poltiglia miserabile, di rottami di servizi segreti, di massonerie minori e deviate era fatta quella macchinazione. Bufera sulla commissione Telecom Serbia. Commissari della maggioranza avrebbero avuto contatti con alcuni testimoni. Un dossier di Repubblica fa esplodere la polemica. Accuse incrociate, veleni, querele, si può riassumere così questa giornata per la vicenda Telecom Serbia. Il quotidiano La Repubblica mostra un foglietto sequestrato in carcere al faccendiere Francesco Pazienza e indirizzato a un certo Giulio. Invita a far pressioni su Pio Maria Deiana, che deve accettare, altrimenti per lui è la fine. Deiana deve parlare del bolognese, per il dossier Pazienza sa come fare, poi basta pomparlo un po' sui giornali e il gioco è fatto. Oppure quando abbiamo dato la notizia che il ministro Siniscalco si era dimesso dal governo, è una notizia che abbiamo saputo molto tardi, alle 11:15, e gli altri giornali l'hanno poi recuperata nel corso della notte, in seconda edizione. Ecco, questi sono gli scoop che si ricordano più volentieri. Poi ci sono i buchi presi, che pesano molto di più. I buchi sono in gergo quelle notizie che gli altri giornali hanno e che noi non abbiamo. Capita ogni tanto, io ho la fortuna di dimenticarmeli in fretta, proprio perché fanno male. In questi anni La Repubblica è cresciuta, lo ha fatto arricchendo la sua proposta con inserti, collezioni editoriali e poi allargando la sua prospettiva anche alla radio e alla televisione. E il suo sito web è tra i più visitati d'Italia. Dopo 40 anni di vita è possibile affermare, malgrado la crisi profonda del settore, che il giornale ha la sua maturità ma anche tanti problemi che il nuovo direttore dovrà affrontare per poterla far crescere con nuove iniziative e proposte. Ma intanto, tanti auguri. Ma gli inserti sono nati ogni volta per una motivazione molto semplice, una voglia giornalistica di andare su terreni nuovi e inesplorati per un quotidiano, da un lato, dall'altra un'esigenza dei nostri lettori che ci hanno tirati per la giacca, ci hanno portati per mano, è il caso dell'Almanacco dei Libri, dall'altro lato una richiesta di mercato che chiedeva di essere soddisfatta, anche di mercato pubblicitario, che è molto importante. E Repubblica è arrivata tutte le volte, in qualche caso per prima, su questi terreni. Io me ne dimentico sicuramente alcuni, ma oltre agli inserti storici, il Venerdì, Salute, Affari, Finanza, poi in questi anni è nato Viaggi, è nato XL, che è una vera e propria rivista mensile per giovani. I quotidiani non erano abituati a fare mensili. Abbiamo cominciato a farli e con grande soddisfazione, andando a cercare i lettori di Repubblica là dove non ci sono ancora, proprio nel momento in cui diventano lettori, mettendogli in mano un mensile che è fatto per loro, che parla di robe loro. Io dicevo a Laura Gnocchi, che dirige XL oltre che il Venerdì, e quando ho guardato il primo numero ho dovuto arrivare a pagina 38 per trovare un personaggio che conosco, e lei mi ha detto: benissimo, perché il giornale non è per te, il giornale parla a gente più giovane. E poi via via tutte le altre cose che sono nate. Penso in particolare all'Almanacco dei Libri, che è nato anche per il grande successo dei libri proposti in abbinata con Repubblica. Noi abbiamo venduto moltissimi libri, sia con i romanzi del Novecento che con quelli dell'Ottocento, e poi via via con le grandi opere, le enciclopedie, la scienza, la storia delle religioni, la storia vera e propria, i fumetti. C'è nata una biblioteca di Repubblica che ci ha fatto capire che il nostro pubblico è particolarmente sensibile a queste proposte se vengono fatte dal loro giornale, che in qualche modo seleziona e garantisce i prodotti che noi offriamo. Io sono di una generazione che è nata con la televisione e quindi non l'ho mai considerato un avversario o un nemico. La televisione su certe cose arriva prima di noi, ti fa vedere dentro, e tuttavia per i giornali e per i giornalisti c'è la possibilità, se lavorano bene, di aprire una porta laterale, di entrare da un ingresso che non è illuminato a giorno dai riflettori della televisione e di guadagnare una prospettiva che illumina qualche lato oscuro della vicenda, che ti fa vedere qualcosa che la dimensione frontale degli avvenimenti non ti consente di vedere, o che in qualche caso occulta e che in qualche particolare caso addirittura mistifica. Penso che ci sarà una connessione molto più forte con Internet, e questa connessione nuovissima tra il giornale di carta, che rimane la porta aerei, rimane, possiamo dirla più semplicemente, la piattaforma centrale da cui parte tutto e a cui tutto ritorna, e la sua diramazione su Internet, che parla in particolare ai giovani, che ti dà l'immediata conoscenza delle notizie, la radio, la televisione, questo è il futuro. Repubblica sarà sempre più un sistema, non soltanto un giornale, ma tutto quello che sta attorno a un giornale. Una certa idea dell'Italia, io non so dirlo meglio. Per i Gialli della Storia ringrazio Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi e Antonella Migliaccio. Grazie anche a Alessandro Chiappini, Valerio Rocchetti in regia. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.